Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, giovedì 17 marzo del 2016. Ci ascoltate in diretta su queste frequenze oppure in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è ascolta per lo streaming. Questa è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Quest'oggi cominciamo con un certo anticipo, vista anche l'assenza del giornale radio e i tanti ospiti per la puntata di oggi. Tutte le informazioni a proposito le trovate sul sito internet della radio, sulla colonna centrale dell'home page c'è trasmissioni e lì trovate Visionari. Idem per quanto riguarda la pagina Facebook, che si chiama appunto Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E per sostenere questa emittente che dal 1977 lavora senza padroni e senza pubblicità, potete sottoscrivere sul numero di conto corrente postale 61804001 oppure sul sito della radio, sempre sull'home page, c'è sostieni per la modalità PayPal e gli altri modi telematici per appunto sottoscrivere. E partiamo subito con Giorgette Ranucci di Lucky Red per parlare della distribuzione del film Truth, il prezzo della verità, in uscita in sala oggi giovedì 17 marzo, al quale tra l'altro abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena. Giorgette, ben ritrovata. Grazie, ben ritrovati a voi. Per chi ci ascolta, raccontiamo un po' subito la storia che narra di questo film. Certo, questo film narra un caso giornalistico successo nel 2004, dove una giornalista, Mary Mapes, per una trasmissione della CBS che si chiamava 60 minuti, e come producer e l'anchorman, adesso mi viene il nome di Robert Redford, invece si chiama Dan Rather, organizzarono una trasmissione televisiva dove dichiaravano che il presidente Bush, che prestava servizio come pilota nella Guardia Nazionale in Texas dal 68 al 74, aveva evitato di andare in guerra in Vietnam, dando delle giustificazioni che poi si sono rivelate inesatte. Questo fatto, che sembra, come dire, anche molto molto molto relativo rispetto alle grandi discussioni giornalistiche del tutti gli uomini del presidente eccetera, invece diventò un caso molto molto particolare, perché questo servizio suscitò scalpore in tutta l'America. C'erano rivelazioni che comunque avrebbero condizionato, come condizionano sempre, le campagne elettorali di Bush, e quindi i due giornalisti furono accusati poi in un secondo momento di falso rispetto alle prove che avevano portato per il servizio, e lei, Mary Mapes, fu licenziata dalla CBS e Dan Rather approfittò per dare prima le dimissioni. Mm-hmm. Diciamo un caso giornalistico come in molti film, costruito solidamente con due grandissimi attori. Sì, sì. Tra l'altro tutta la squadra che seguì quell'inchiesta finì male, insomma, hanno pagato tutti un prezzo molto alto. E tu facevi riferimento alle campagne elettorali di Bush, perché già nel primo mandato c'era stato tutta la questione del conteggio dei voti che vedeva e forse avrebbe visto vincitore Al Gore. Esatto. Tra l'altro, però, come sempre succede, risultò vincitore Bush. Certo. E anche rispetto a questa inchiesta richiesta, alla fine risultò vincitore Bush. Sì. Devo dire che io ho incontrato, il film ha aperto la festa di Roma quest'anno, sì, cioè nel 2015, e naturalmente e purtroppo sia Kate Blanchett, che interpreta in maniera magnifica Mary Mapes, che Robert Redford, che è il Dan Rather, il grande giornalista, non sono potuti venire. Però è venuta la vera giornalista Mary Mapes, che naturalmente ha di questa vicenda un ricordo molto preciso e brillante, che poi ha scritto in un libro le sue memorie di questo caso, e che sono diventate poi la base per la sceneggiatura del film. Sì. Lei è una donna estremamente intelligente, molto simpatica, politicamente molto molto preparata, infatti mi ha detto che seguiva e seguirà, e in questo momento immagino che stia seguendo, la campagna elettorale di Hillary Clinton. Tra l'altro anche giornalista dotata, perché fu lei a scoperchiare il mostro della prigione di Abu Ghraib, insomma tutto quello che ne conseguì, e grazie insomma alle sue inchieste. Due elementi secondo me sono molto convincenti del film, che considero tra i migliori di questi inizio 2016. C'è un discorso che fa Robert Redford a lei in una delle parti finali del film, che spiega come l'informazione all'inizio inizialmente fosse considerata nei primi tempi, insomma, poi della diffusione televisiva dell'informazione, fosse considerata un servizio, quindi non aveva problemi di budget, era una cosa che poteva anche andare in perdita. Poi quando invece subentrò la pubblicità, tutto questo ha modificato gli equilibri, per cui hanno preso sempre più peso le notizie rosa o di costume o piuttosto futili, a dispetto poi delle inchieste giornalistiche, e questo è un dato molto importante. È un dato importante, ed è un dato che constatiamo quotidianamente, nel senso che in Italia abbiamo anche un surplus di talk show, di questi avvenimenti politici e conversazioni, inchieste, scandali, però immagino, cioè, che lo scandalo rosa colpisce molto di più il pubblico. Certo, certo. E l'altro elemento è rispetto alla notizia in sé, nel senso, loro vennero accusati del fatto che le prove, i documenti di cui entrarono in possesso erano delle copie e non degli originali, e quindi potevano anche risultare contraffatti, ma nessuno si è preso la briga di controllare che rispondessero al vero, e tutto si è concentrato sul come hanno fornito la notizia. Un po' fa tornare alla mente il detto del dito che indica la luna, tutti a guardare il dito ma nessuno guarda la luna, insomma. E questo è anche un altro dato che fa oggi si fa particolare attenzione a chi dà la notizia e come la dà, piuttosto che la notizia in sé. Poi alla fine di questa storia, dove ci fu come un processo nei riguardi della, sì, giornalista, sì, Mapes, da parte della CBS, sì, che naturalmente da questa notizia scandalistica ed inchiesta aveva capito che forse qualcosa non era al momento giusto su queste prove, che poi furono ritratte da chi le aveva portate. Insomma, il finale di questo film, che forse oggi può essere, come dire, un segnale, è che la libertà di informazione a volte viene soffocata dalla politica, sì, e in questo il film, soprattutto nella parte finale, in questa specie di autodifesa che fa la Mapes, Kate Blanchett, mi sembra un discorso molto molto importante per quello che è non solo la libertà di informazione, ma anche la figura del giornalista. Giorgette, da oggi nelle sale, in quante sale arriverà? Allora, arriva in 150 sale, arriva anche in versione originale, questo in a Roma e poi anche sarà a Milano, in modo che il pubblico possa apprezzare soprattutto la grande, grande interpretazione di Cate Blanchett, che ritengo in questo film in una delle sue migliori espressioni di interpretazione, è veramente a tutto tondo, fantastica, e anche di Robert Redford, che ritroviamo dopo molti anni da Tutti gli uomini del presidente ancora in una forma smagliante. Giorgette, un abbraccio, ti ringrazio, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi. Giorgette Ranucci di Lucky Red sulla distribuzione del film Truth, il prezzo della verità, in uscita in sala oggi giovedì 17 marzo, come abbiamo sentito, in 150 sale. Con Alberto Saibene, regista del film La ragazza Carla, in programmazione quest'oggi giovedì, questa sera giovedì 17 marzo qui a Roma all'Apollo 11. Alberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi tutti. Allora, un film che ha una derivazione letteraria. Sì, il film è tratto dal poemetto di Elio Pagliarani, La ragazza Carla, che Pagliarani scrisse, diciamo, nel corso degli anni 50 e poi uscì in volume nel 1960. Senti, intanto ti chiedo che fortune ebbe questo testo. Ma dunque, il testo ha un'origine che rapidamente vale la pena di ricostruire. Pagliarani arrivò dalla Romagna a Milano nel 45 e poi ci tornò di nuovo nel 48, che è l'anno in cui è ambientato per l'appunto il poemetto, prima delle elezioni, delle famose elezioni del 48. Fu impressionato molto da questa città distrutta dalla guerra, ma molto dinamica, e scrisse due paginette per un soggetto che voleva dare a De Sica e a Zavattini, quindi un'idea di film. Non se ne fece nulla, e nel corso degli anni 50 Pagliarani scrisse questo poemetto, che è piuttosto lungo, diciamo il film dura un'ora e pur con inserti vari ne conserva appunto circa l'80%, e fu diciamo fatto pubblicare da Elio Vittorini, prima in rivista, poi in volume. Questo avveniva prima che Pagliarani aderisse al gruppo 63, si trasferisse a Roma e iniziasse, diciamo, una stagione diversa della sua carriera letteraria. Senti, e questa decisione di una trasposizione dalla pagina scritta allo schermo? Beh, nasce dall'incontro con Carla Chiarelli, l'attrice Carla Chiarelli, che da quasi 20 anni porta in giro il poemetto in teatri, salotti, in occasioni le più diverse, diciamo. Qualche anno fa mi ha chiesto di aiutarla a rendere chiara, a spiegare, a dare una cornice a un testo che comunque non è facile, e ascoltandolo più e più volte mi è venuto in mente che c'era molto cinema in questo testo. E allora ho chiesto, insomma, mi è venuta l'idea di fare questo film, ho chiesto ad amici più bravi ed esperti di me, come Luca Bigazzi, che fa la fotografia, insieme a Simone Pera, Carlotta Cristiani, che fa il montaggio, insieme a Maria Chiara Piccolo, produttore, e Gianfilippo Pedote, di fare questo piccolo film. E insomma, insieme ci abbiamo cominciato. Senti, ecco, rispetto alla pagina scritta, come l'hai strutturato, su cosa ti sei concentrato rispetto alle pagine? Ma dunque, il film è molto composito e anche molto difficile da fare, nel senso, è stato molto difficile da fare, nel senso che non, a nostra conoscenza, non è mai stata fatta una trasposizione da una poesia, dal verso al cinema. Ci sono degli esempi, non so, tipo La camera da letto di Bertolucci, ma è presente il poeta. In questo caso, diciamo, non c'è una vera e propria sceneggiatura. Il film ripercorre buona parte del testo, ci sono degli inserti, ed è l'unica cosa nuova che sono stati scritti da Renato Gabrielli per Elio, di Elio le storie tese, che fa una specie di psico qualche cosa che dà dei consigli alle ragazze Carla di oggi. E poi abbiamo reso quella Milano del dopoguerra, quella Milano in bianco e nero, grigia, eccetera eccetera, col repertorio, quindi con molti filmini familiari o film di propaganda eccetera eccetera, mescolandola alla Milano di oggi. Senti, il nucleo portante di questo scritto qual è, a tuo modo di vedere? Beh, il nucleo portante di questo scritto è la storia di questa ragazzina, della ragazza Carla, che è una sedicenne, che è un personaggio universale, una ragazzina che vive con la mamma vedova e la sorella in casa, in una casa popolare, a Milano si dice una casa di ringhiera, e la madre la sprona, ora che ha 16 anni, a trovare un lavoro, la iscrive a una scuola di dattilografia, poi trova un lavoro, nel lavoro conosce la società, conosce i primi uomini, subisce l'avance del principale e va avanti. È un personaggio bellissimo, un personaggio in realtà passivo, ma dove si vede una ragazza crescere, una ragazza di allora aveva, a 16 anni si lavorava, oggi si inizia un po' più avanti, se si inizia. Questo è il nucleo. È il nucleo del poema, è il nucleo della storia. L'altro polo, se posso continuare, certo, è Milano, è l'ambientazione, cioè Pagliarani capisce che nel dopoguerra con la poesia si possono raccontare delle cose che prima non si raccontavano. Il prima è Montale, per intendersi, Montale, sì, Ungaretti, sì, sì, sì. E con la poesia si possono raccontare la città, le periferie, le fabbriche, i rumori, la folla. E questo naturalmente si viene sì, diciamo, da una nuova stagione della poesia italiana, ma viene anche dal fatto che sono arrivate le traduzioni di Brecht, di Toller, di Majakovskij, cioè che attraverso la poesia si possono dire delle cose che non si erano mai dette. E così nel cinema si può cercare di farle vedere. Alberto, oggi all'Apollo 11 qui a Roma, credo anche alla tua presenza, e poi che ne sarà di questo lavoro? Sì, alla mia presente è un'introduzione di Andrea Cortellessa, che è il massimo esperto di Pagliarani, che ha già introdotto il film altrove. Il film ha avuto una quindicina di passaggi a Milano, che sono abbastanza tanti dopo una prima visione al Milano Film Festival. Io adesso sto andando in giro per l'Italia, ero ieri a Macerata, settimana prossima sarò a Napoli, mi pare, e così via, insomma, in una dozzina di appuntamenti per adesso fissati in giro per l'Italia. E poi, siccome il film è prodotto anche da Rai Cinema, a un certo punto andrà in televisione, anche se non si sa bene quando, comunque diciamo nel corso del 2016. Ci farai sapere allora. Alberto, io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento di questa sera all'Apollo 11 qui a Roma, e con alle 21 con te che presenzierai la proiezione con un'introduzione e prima, e ci sentiamo spero presto. Grazie a voi tutti. Ciao Alberto. Ciao. Alberto Staibene, regista del film La ragazza Carla, all'Apollo 11 qui a Roma stasera 17 marzo, giovedì. Eccoci di nuovo con Angelita Fiore, regista del documentario Uomini Proibiti, in uscita in sala, è uscito da 2 giorni, andrà avanti fino al 27 maggio, una distribuzione itinerante. Ci eravamo sentiti in occasione del crowdfunding nell'aprile dello scorso anno per chiudere il film, che era in fase di post-produzione. Angelita, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccoci, ciao a tutti. Allora, ci siamo riusciti, sta attraversando le sale un lungo tour da 2 giorni fa fino al 27 maggio. Allora, per chi ci ascolta, cos'è Uomini Proibiti? Uomini Proibiti è un documentario che racconta le storie segrete d'amore tra preti e donne. È un documentario fondamentalmente d'amore, che sta facendo un po' il giro dell'Italia e insomma un documentario necessario, direi. Tra l'altro, nella scorsa conversazione ci dicevi che è un fenomeno abbastanza diffuso, ma non se ne parla, nel senso che i casi ufficiali li stimavi intorno ai 120.000 casi, insomma sono numeri importanti. Sì, sono numeri che chiaramente non sono poi, insomma, come dire, non vengono poi più di tanto conteggiati dalla Chiesa, perché molti poi sono storie segrete, appunto, e non ufficiali. È un fenomeno che è molto più diffuso di quello che si pensa e che quindi ormai oggi può diventare all'ordine del giorno, insomma. Senti, una cosa che mi veniva in mente anche in base alla conversazione che avevamo avuto quasi un anno fa. Al di là delle religioni mistiche trascendentali, nelle principali religioni il celibato è previsto solo da quella cattolica? Ma sì, direi, adesso non possiamo prenderle in esame tutte, però sicuramente in quella cattolica d'Occidente, perché se tu pensi che solo la religione cattolica ha due riti, una è quella orientale, diciamo quella greca, e lì invece i preti sono sposati, ma è sempre religione cattolica, per cui c'è già un paradosso insomma interno alla stessa religione cattolica. Mm-hmm. Se pensi ai protestanti, eccetera, ecco lì proprio tutta un'altra dimensione. Sì. Sì. Oh, ci raccontavi di un film costruito su un quotidiano ripreso dalla videocamera e delle interviste, una serie di interviste che hai realizzato. Sì, ci sono sia, esatto, riprese che insomma, come dire, seguono un po' questa tecnica dello shadowing, per cui della ripresa seguendo i protagonisti, e sì, anche interviste, ma le storie principali sono tre, quelle raccontate, e poi abbiamo anche delle telefonate, diciamo, registrate di nascosto, per cui insomma c'è un po' di tutto e si raccontano tre storie di preti che hanno insomma che si sono innamorati di una donna, ma ognuna di queste storie poi finisce in una maniera diversa. Senti, e le donne che hai seguito rispetto a queste vicende come vivono questa dimensione? Ne ho sentite molte di donne, poi nel documentario ci sono poi queste tre protagoniste, e l'esperienza comune sicuramente è quella della sofferenza da un certo punto di vista, perché da quello che è emerso sono donne a cui in un certo modo viene negato un po' non solo il loro diritto di essere donna in sé, ma anche quello di essere madre, moglie, eccetera, e per cui insomma sono storie molto nascoste e molto dolorose. Se solo pensi, non so, faccio un esempio, i Natali che magari hanno passato in solitudine perché non potevano dire chi era il proprio compagno, e poi magari la famiglia che invece le invitava a fidanzarsi, no? Ma loro il fidanzato ce l'avevano già, solo che nessuno lo sapeva, per cui insomma si creano delle dinamiche molto particolari, ecco. E difficili da gestire forse anche. Sì, poi a proposito del nascosto, dicevamo dei 120.000 casi, ma sono quelli ufficiali e riguardano preti che hanno lasciato i voti, sacerdoti che hanno lasciato i voti, però ci sono poi tutta una serie di relazioni nascoste e figli anche. Figli illegittimi. Anche, quella è un'altra problematica. Chiaramente ci sono i preti che poi lasciano il sacerdozio, riconoscono i figli, e quindi questa è una parte, ma poi c'è anche tutta un'altra dimensione che vede poi il crescere anche di una quantità di tanti figli legittimi che non vengono riconosciuti e che poi vivono anche loro un po' questa condizione in maniera difficile, no? Perché essere il figlio del prete oggi insomma non è poi così accettato socialmente. E quindi questo mette in campo poi tante problematiche, tante altre problematiche. Senti, la posizione delle gerarchie ecclesiastiche rispetto a questo fenomeno? La posizione è sempre stata di chiusura, chiaramente, anche se poi di recente con Papa Francesco intanto sono scappate delle dichiarazioni di apertura, ma di fatto nulla è cambiato, per cui insomma il celibato viene difeso anche per motivi economici, da quello che emerge insomma dalle varie fonti che ho sentito e consultato, quindi anche da questioni di eredità, no? Perché se un prete si sposa, l'eredità, chiaramente i beni della Chiesa non, insomma, vengono poi lasciati in eredità ai figli, eccetera. Per cui ecco, si intrecciano sia motivazioni morali, se possiamo dire così, ma anche prettamente economiche e materiali, ecco, sì, questo sì. Forse è il nocciolo della questione. Senti, è cominciato questo tour che arriverà fino al 27 maggio, e come hai deciso di strutturarlo? Ma adesso stiamo continuando intanto il giro dei festival, perché insomma anche le festival sta andando molto bene, e contemporaneamente abbiamo fatto adesso il primo lancio a Roma, molto bello, proprio qualche giorno fa, il 15, alla Casa del Cinema, e continueremo il 22 marzo a Bologna, ritorneremo qui e poi in varie province, e piano piano se ne stanno aggiungendo delle altre, per cui di volta in volta questo tour sembra un po' crescere, e quindi insomma cerchiamo un po' di coprire tutto il territorio, anche perché spesso ci scrivono su Facebook o via mail chiedendo il film e chiedendo di vederlo dove possiamo vederlo, e quindi adesso stiamo cercando un po' di fare una rete con varie province. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sicuramente c'è, cioè, il sito internet, ma aggiornato in tempo reale è la pagina Facebook, che ha il nome in inglese del film, che è Forbidden Men Film, Uomini Proibiti in inglese, e lì c'è tutto in tempo reale. Benissimo. Pure tutte le date, eccetera. Angelita, io ti ringrazio, ci sentiamo spero presto. Ah sì, e quando vuoi vieni al cinema a vedere il film. Benissimo. Un abbraccio, bene, ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao. Angelita Fiore, regista del documentario Uomini Proibiti, in uscita in sala, presentato in sala, un lancio ufficiale c'è stato due giorni fa, il 15 marzo, e poi varie tappe fino al 27 maggio. Con Mario Sesti, questa volta in veste di autore del libro Che cosa è il cinema, che sarà presentato a Libri Come, Festa del Libro e della Lettura, in quel dell'Auditorium al Parco della Musica, 19 marzo prossimo, cioè sabato. Mario, ben ritrovato. A voi, come andate? Come va? Bene, bene, bene. Abbiamo già cominciato e abbiamo già sentito diversi autori. Questa volta sì, c'è stato anche un caso di rapporto tra pagina scritta e cinema, con Alberto Saibene, che ha realizzato il film La ragazza Carla, che sarà presentato oggi all'Apollo 11, e con te invece parliamo proprio di un libro che tratta di cinema. Beh, direi di sì, nel senso che, a parte il titolo molto ambizioso che è stato messo dall'editore al quale io colpevolmente ho aderito, in realtà ci sta uno dei libri più famosi di tutta la storia del cinema, Che cos'è il cinema, per l'appunto, di André Bazin, e un pochino io mi sento in colpa di aver osato di intitolare il mio libro alla stessa maniera, però fondamentalmente diciamo l'intento è quello anche di capire se un appassionato di cinema, appunto in questo libro in cui ci sono delle interviste, delle conversazioni che ho fatto negli ultimi 10 o 15 anni soprattutto alla festa del cinema, sì, e che vanno da nomi diversissimi, tu poi sei stato uno dei primissimi testimoni, ma insomma da Carlo Verdone fino a Terrence Malick, da Meryl Streep fino a Nicholas Winding Refn, da Al Pacino fino a David Cronenberg. L'idea è un po' quella tipica del cinefilo, cioè la bulimia. Non c'è nulla nel cinema di bello di cui non possa provare appetito. Mm-hmm. E innanzitutto era questa idea che mi piaceva comunicare. Senti, dai nomi che hai detto, una predisposizione per Hollywood comunque? Beh, oddio, fino a un certo punto, nel senso per l'appunto che ci sono, sì, diciamo, Terrence Malick e David Cronenberg appartengono all'industria cosiddetta nordamericana, ma non credo che Hollywood li considererebbe proprio come rappresentanti di se stessa, diciamo, ecco, per esempio. E poi ci sono anche, per esempio, c'è un'attenzione particolare alla creatività degli attori, perché per l'appunto Tony Servillo e Carlo Verdone, ma c'è anche Valeria Golino, sì, che come sai è un'autrice, ma è un'attrice ma anche una regista. E, diciamo che l'idea è stata soprattutto quella di mettere sulla pagina scritta quello che è stato il mio lavoro di critico soprattutto negli ultimi tempi, che era quella di condividere con il maggior numero di persone possibile, soprattutto nelle sale dell'auditorium, che poi sono sale come sai impegnative, possono arrivare anche, sì, fino a 1000-1200 persone, anche di più, insomma, tutte le persone che hanno assistito insieme a me alla conversazione con Wenders, io sono un po' il primo spettatore, ecco, sì, mi metto soprattutto, sono il primum inter pares, però i veri protagonisti sono tutti, sono quel pubblico che ha assistito insieme a me a ciò che diceva Wenders, alla chiacchierata che abbiamo fatto. Quindi anche se vuoi un precipitato in forma scritta di un'attività che la critica, come vogliamo chiamarla, orale, un po' teatrale, ci sono dei piccoli elementi di teatralità, di conversazione in pubblico, ma soprattutto è uno spettacolo dal vivo, ecco, diciamo una critica live, forse una critica live, ecco, da questo proprio da questo punto di vista volevo sapere, Mario, e com'è parlare di cinema piuttosto che vederlo, e soprattutto con chi lo fa, parlarne con chi lo fa. Ma dunque non ci credo che, no, te come chiunque altro ami il cinema non abbia mai, non si sia mai infognato in una discussione sul cinema, non c'è bisogno di essere critici, no? Sì, a casa, sì, di amici, sì, no? La bellezza del cinema è proprio questo, che tutti giustamente abbiamo visto un numero di film tali da ritenerci competenti, e quindi tutti quanti ci arrischiamo più di quanto faremmo probabilmente, non so, con la letteratura o con la danza o con l'arte figurativa, ad avere delle opinioni che siamo disposti a difendere a spada tratta. Quindi il parlare di cinema e il cinema secondo me sono due attività abbastanza contigue, naturalmente quando puoi parlarne con chi lo fa, tutto questo forse acquista un'aura, a volte anche un contenuto e naturalmente anche una lingua particolare, no? L'idea è anche che chi fa cinema poi possa essere sufficientemente appassionato, perché come sai poi tutte queste conversazioni sono accompagnate dalla visione di clip, no? Di scene, sì, no? Sì. Per cui ripassando il proprio cinema ripercorrono, si riproducono, si rigenerano no? Le proprie emozioni, come dice Tornatore, io quando vedo una scena di un film non vedo mai un film, ma vedo perché mi ricordo troppo esattamente tutto quello che è successo mentre lo giravo, no? Certo. E quindi c'è quel fuori set, no? Che naturalmente di cui può essere testimone solo chi effettivamente ne è stato protagonista. Mario, come l'hai organizzato il libro? Guarda, appunto, ci sono varie, diciamo, l'indice contempla un po', per l'appunto, si parte con un actor studio, per l'appunto, perché inizio con gli attori, che poi sono forse gli elementi più sottovalutati, nel senso che tradizionalmente invece i festival di cinema sono nati soprattutto per celebrare gli autori, no? E quindi sì, fondamentalmente coloro che stanno dietro la macchina da presa. Però in realtà si procede poi per dopo gli attori che sono per l'appunto Meryl Streep, Al Pacino, Valeria Golino, Sean Connery, Carlo Verdone e Tony Servillo, ci sono quelli che io un po' ho chiamato leggende, e quindi Cronenberg, Lynch, Malick, Arthur Penn, insomma questo è un libro anche per me importante, perché mi andava a descrivere anche degli incontri che ho avuto con persone che naturalmente non pensavo neanche di poter mai incontrare quando ho iniziato ad amare il cinema, quando ho visto Piccolo Grande Uomo, chi se lo sognava che sarei stato a casa di Arthur Penn a parlare con lui dei suoi film. Emir Kusturica, a Wim Wenders. Poi c'è una sezione, l'ho chiamato contemporanea, in cui ci sono dei registi che per vari motivi mi sembra rappresentino un grado di lucidità particolare su cosa vuol dire fare questo mestiere oggi, che sono Olivier Assayas, Giuseppe Tornatore e Nicholas Winding Refn, con cui come sai ho fatto l'incontro, sì, fino all'altra settimana. E poi c'è un ultimo capitolo secondo me altrettanto importante, che scusate, che non è con un incontro con persone non è la registrazione, ma è un ricordo, remember, tutti ricordi che ho scritto in occasione dello scomparso, dell'anniversario della scomparsa, soprattutto per film TV, che sono Silvana Mangano, Suso Cecchi d'Amico, Francesco Rosi e Mario Monicelli. Ultimo, ma non ultimo, in realtà poi ho chiesto a colleghi o amici, a persone che avevano partecipato insieme a me, di testimoniare un po' qual è stato anche il set con cui tutto questo è nato, che è stato fondamentalmente l'auditorium nel 70-80% dei casi. Quindi c'è un pezzo di Gianni Canova, un pezzo di Valerio Cappelli, che è un collega del Corriere della Sera, sull'arte dell'intervista, Fulvia Caprara, che è una collega della Stampa, Carlo Fuortes, che è stato quella persona che materialmente, per, insieme alla quale per prima abbiamo immaginato l'auditorio come set di questi incontri, di queste conversazioni, come alternativa ai tradizionali modi di uso del cinema, il cineforum, le proiezioni. E anche un ricordo molto bello di Domenico Starnone, che è un mio amico, un famosissimo scrittore, che è anche una grandissima appassionata di cinema e anche uno che assiste a molti di questi incontri. Quindi l'idea, come credo si possa capire, è anche quello di offrire una letteratura di cinema che fosse il più morbida possibile, più accogliente, che sì, soprattutto ripercorresse anche un po' il momento dal vivo. Del resto, adesso esce in sala, per l'appunto, no, il film dedicato alla famosa, la più famosa intervista della storia del cinema, quella di Hitchcock, di Truffaut Hitchcock, a testimonianza del fatto che l'intervista non è un genere qualsiasi, no, del sì, cinema, sì. Anzi, la letteratura di cinema ha fatto dell'intervista, invece di un genere minore, un genere principale. Da questo punto di vista, forse il libro è anche un po' un omaggio a questo tipo di, sì, di modo di scrivere di cinema. Mario, allora ricordiamo l'appuntamento all'Auditorium Parco della Musica di sabato 19 marzo, gli orari? Alle 20 nella parte garage, cioè una volta entrati nella camera sulla sinistra, dove si svolgono tutte le presentazioni dei libri. E l'ingresso è gratuito e qualsiasi persona che sia curiosa o abbia voglia di venire, naturalmente ben accolta, benvenuta. Mario, un abbraccio, a risentirci presto. A presto, grazie ancora Federico. Ciao, ciao, ciao. Mario Sesti, autore del libro Che cosa è il cinema? A Libri Come, festa del libro e della letteratura all'Auditorium Parco della Musica qui a Roma, sabato 19 marzo. E con l'occasione vorrei lanciare anche un altro appuntamento per il trentennale del premio Solinas, un omaggio a Giorgio Arlorio al Teatro Eliseo il 23 marzo prossimo, che è mercoledì, se non sbaglio, sì, è mercoledì, alle 18.30 è previsto un cocktail, poi alle 19.30 l'omaggio a Giorgio Arlorio, storico giurato del premio Solinas, e a seguire la proiezione del film Queimada, di Gillo Pontecorvo, con le musiche di Ennio Morricone, scritto da Franco Solinas e Giorgio Arlorio, e anche nel cast c'è Marlon Brando. Questo è l'appuntamento per mercoledì della prossima settimana. Ritroviamo Luca Mosso del Milano Film Network per parlare della distribuzione del film Le Mille e Una Notte, Arabian Nights, in uscita in sala il 18 marzo, cioè domani, da venerdì 18 marzo, un film che si compone di più parti, giusto Luca? Ben ritrovato. Buongiorno, sì, sono tre volumi, li chiama Gomez, e sono risultato non tanto di un progetto iniziale così grande, ma di un film che ha preso la sua forma nel momento in cui si girava. È un film di grandi ambizioni che ha trovato questo respiro, questo ampio respiro al momento della realizzazione, e Gomez ha trovato anche dei produttori abbastanza illuminati da dirgli: vabbè, se non ci sta in un film solo, ne facciamo tre. Senti, per chi è all'ascolto, come lo sintetizzeresti questo film in tre parti? Allora, è un film che mette al centro della sua attenzione due anni cruciali del Portogallo, 2013-2014, in cui la crisi che ha attanagliato tutta l'Europa si manifestava in Portogallo, secondo il punto di vista condivisibile peraltro di Gomez, con particolare violenza a causa delle politiche governative, restrittive e dominate da, mi sa, cerco di citare testualmente, da una scarsissima consapevolezza sociale. Mm-hmm. E quindi gli effetti della crisi sono particolarmente devastanti. C'è l'inizio del primo volume in cui Gomez si mette in prima persona a riflettere sulla responsabilità di un cineasta che vuole raccontare il suo paese in un momento così difficile. Mm-hmm. E mette a fuoco anche, inevitabilmente con grande lucidità, i rischi di un film militante, di un film a senso unico. Mm-hmm. E a partire da questa riflessione decide di fare un film molto informato, molto puntuale, molto preciso e anche molto parziale, ma dalla parte giusta, su questa realtà, e di concedersi la massima libertà espressiva possibile per farlo. E allora da una parte c'è un'inchiesta, una serie di inchieste affidate a giornalisti che hanno raccontato, raccolto storie particolarmente significative e sintomatiche del passaggio, e dall'altra c'è un regista che a partire da queste storie si concede aperture fantastiche, situazioni paradossali, messe in scena surreali, accanto a invece documentazioni precise o interpolando documentazioni precise e di tono quasi documentaristico della situazione. Mm-hmm. Aggiungerei anche dei momenti lirici, anche divagazioni. Sì, a un certo punto, sempre in questo inizio, Gomez è seduto al bar, c'è una voce off che dice: ma io non potevo non seguire le lotte dei cantieri, della dismissione dei cantieri navali, no? È come se dentro nella vita del regista si fosse imposta un argomento, ma non sicuramente per la sua importanza, ma quale fosse quasi un'interferenza obbligatoria. Cioè la vita non ha una struttura lineare, e Gomez ha, prendendosi anche tutto questo tempo, ha l'ambizione di interpolare, di inserire, di costruire all'interno, concedere che nello sviluppo delle sue storie, nello sviluppo del suo racconto, ci siano delle interferenze, ci siano degli argomenti che si impongono per quello che sono, e quindi si concede una struttura narrativa estremamente libera. Sì. La cosa bella è che trova la forma per farlo, perché il progetto va bene, ok, interessante, ecco, quello che noi abbiamo di fronte quando l'abbiamo visto è un film, uno splendore di film, un film che è appassionante, un film che ovviamente ci obbliga un po' a riposizionarsi, e di quei film che ci raccontano una cosa e ci si pongono contemporaneamente una domanda sul cinema: che senso ha fare il cinema oggi? Come può essere il cinema? Come può essere il cinema di fronte a, che racconta la realtà? E quando succedono queste cose, per cui abbiamo un bel racconto, un racconto della realtà puntuale e preciso, e dall'altra un'interrogazione sul ruolo del cinema, ecco, di solito c'è qualcosa di interessante. Senti, come allora ci spieghi anche il Milano Film Network come si è occupato di questa distribuzione? Allora, il Milano Film Network è un'associazione che raccoglie 7 festival di cinema milanesi. Noi facciamo tante cose insieme, abbiamo razionalizzato la nostra attività, facciamo della formazione, facciamo dei workshop di sviluppo di progetti produttivi e facciamo distribuzione. Il nostro punto di vista è quello di gente che sta fuori da questi settori, ma che non vuole essere ovviamente improvvisata, e ci poniamo in modo critico rispetto alla, per esempio, alla produzione italiana di cinema indipendente, e facciamo dei workshop di sviluppo, che è il punto critico del sistema italiano. Rispetto alla distribuzione, che è estremamente standardizzata e che porta tanti film simili uno all'altro e si dimentica film di questo tipo, allora abbiamo voluto buttare un sasso, abbiamo voluto cimentarci in una cosa che ovviamente potete immaginarvi è piuttosto difficile. Mm-hmm. La trilogia che si compone di 3 volumi, cioè che sono 3 film distinti, ciascuno di 2 ore, poi non è tanto facile da proporre a un esercente, è molto più facile da proporre a uno spettatore, perché in realtà questa libertà di cui che si concedeva che si è concesso Gomez nella impaginazione, diciamo così, del suo film è una libertà che anche lo spettatore si può prendere. Si possono vedere i film in fila, si possono vedere uno solo il secondo, cioè, non c'è una conseguenzialità diretta. Ovviamente i tre film costituiscono uno sviluppo preciso, però sono film in qualche modo che danno la possibilità allo spettatore di abitare uno spazio e un tempo. Mm-hmm. E di farci anche un po' quello che vuole, cioè nel senso che si può prendere le libertà che vuole, ma un esercente, non so se mi spiego, è una cosa un po' complicata da averlo. Fortunatamente abbiamo avuto un buonissimo riscontro da parte dei colleghi critici che hanno capito l'importanza dell'operazione. Speriamo oggi, da domani avremo anche un riscontro più concreto. Per saperne di più, riferimenti internet, Luca? Allora, milanofilmnetwork.it, ci sono tutte le date, tutte le proiezioni. La cosa importante è che domani Miguel Gomez viene in Italia, presenterà il film all'Anteo di Milano alle 20, sabato invece sempre alle 20 sarà a Torino al Massimo e domenica sarà sempre alle 20 al Cinema Farnese di Roma. Quindi per gli spettatori di Milano, Torino e Roma ci sarà la possibilità di incontrare l'autore, che a Roma sarà introdotto da Goffredo Fofi insomma, parlare con lui e scambiarsi anche delle impressioni a caldo che credo saranno molto interessanti. Luca, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Buon lavoro. Grazie, ciao. Luca Mosso del Milano Film Network sulla distribuzione del film in tre parti, Le Mille e Una Notte, Arabian Nights, in uscita in sala da domani, venerdì 18 marzo. Nicola Falcinella per parlarci della 23ª edizione di Sguardi Altrove International Film Festival a Milano da oggi fino al 25 marzo. Nicola, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovato, ogni volta con una veste diversa, ma sì. Ci troviamo sempre. Allora, tu ti occupi di una sezione specifica, però insomma diamo un po' uno sguardo complessivo a questa rassegna. Qual è il suo senso per chi ci ascolta, Nicola? Sì, il senso è quello di dare visibilità, di valorizzare i film realizzati da registe donne. È un festival che ormai ha una lunga tradizione, è la 23ª edizione, è nato negli anni 90, prima come rassegna, poi è diventato festival con delle sezioni competitive, si è sempre più allargato anche il suo sguardo. Quest'anno ci sono più di 70 titoli in programma, ci sono 4 concorsi di fatto: un concorso internazionale lungometraggio, uno cortometraggio, uno documentario e poi Frame Italia, che invece riguarda il cinema italiano senza distinzione di formati, di durata, e poi ci sono delle sezioni collaterali. Senti, per quanto riguarda invece la sezione di cui ti occupi tu, come è stata la scelta? Allora, io seguo il concorso lungometraggi. Sì. Di finzione, e poi ho curato quest'anno il focus sulla Turchia, sul cinema turco di oggi, sul cinema turco delle donne. E questo perché il cinema turco negli ultimi anni ha avuto grandi successi, penso alla Palma d'Oro, Winter Sleep di Nuri Bilge Ceylan e altri premi, anche l'ultimo mostro di Venezia. E c'è un grande fermento nella cinematografia turca, e questo è anche dato da tante registe donne. Stanno venendo sulla scena, che hanno realizzato i primi film, i secondi film, è un po' la capofila, è Yezi Mustaoglu, che molti conosceranno per il suo film Verso il Sole, che aveva preso un premio a Berlino a fine anni 90, era anche uscito nelle sale, e poi dietro di lei ci sono tante altre. Quindi l'idea è partita da questo, dalla presenza di tante registe donne turche interessanti. Abbiamo deciso di farci un focus che ora diventa anche di grande attualità, visto che la Turchia è un po' crocevia per i profughi, ma anche purtroppo vittima di attentati terroristici. E abbiamo selezionato 8 film, sia di finzione sia documentari, in cui si aggiungono 2 lungometraggi che invece sono nel concorso Nuovi Sguardi, il concorso lungometraggi, questo perché sono recentissimi e appunto da una parte permettevano di ampliare il panorama del focus, dall'altra meritavano di poter competere per un premio, ci sembrava ingiusto metterli fuori competizione. Senti Nicola, per saperne di più ci dai i riferimenti internet per il festival? Sì, c'è un sito che è sguardialtrove.it dove c'è già tutto il programma dettagliato del festival. La sede principale è lo spazio Oberdan a Milano, però ci sono anche altre sedi dove ci sono degli eventi, delle proiezioni, per esempio il cinema Gregoriano in questo fine settimana, e poi appunto c'è il materiale cartaceo. Una cosa che volevo ricordare, che sì, non avevo detto, è l'omaggio e il premio a Margherita Bui. Ogni anno ospitiamo una regista o un'attrice italiana di primo piano. Quest'anno tocca a Margherita Bui, che è sicuramente una delle più popolari e conosciute interpreti italiane. Sarà presente da noi il 23 e il 24 e presenterà in sala 5 film che lei ha selezionato come più rappresentativi della sua carriera. Un omaggio curato da Massimo Causo, e tra questi film ci sono Mia Marina Moretti, Lo Spazio Bianco, eccetera. Bene, Nicola, io t'abbraccio e a sentirci presto. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Ciao, ciao, ciao. Nicola Falcinella per parlarci della 23esima edizione di Sguardi Altrove International Film Festival a Milano da oggi 17 marzo fino al 25. Marco Santarelli, regista del documentario Dus Tour, Costituzione, all'Apollo 11 qui a Roma a partire da domani 18 marzo. Marco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a voi. Ne avevamo parlato un po' di tempo fa di questo tuo Dus Tour in carcere a Bologna, dove dei detenuti islamici rivedono e discutono di Costituzione. Sì, dei detenuti islamici discutono di Costituzione italiana e discutono di costituzioni arabe, di quelli che sono poi i valori e i principi della cultura araba, della cultura islamica. Un documentario che ho girato l'anno scorso, gran parte delle immagini sono girate nell'area pedagogica del carcere di Bologna La Cossa, nella biblioteca, dove una volta a settimana si sono incontrati un gruppo di ragazzi, per lo più arabi dell'area del Maghreb, e si sono incontrati per confrontarsi con ospiti esterni al carcere a partire da valori e principi della nostra Costituzione. E sono stati insomma 24 incontri intensi, ecco, incontri che duravano 2-3 ore a volta e con argomenti forti e discussioni accese. In uno spazio che ha un suo retroterra, perché mi dicevi che è un carcere che è stato quello che aveva più detenuti stranieri e con i quali gli operatori lavorano da tempo, quindi non è una prima volta. Diciamo che era, nel senso, io avevo già girato un altro documentario alla Tozza dal titolo Mille e una notte nel 2011, e in quegli anni la situazione era veramente drammatica, soprattutto per il problema del sovraffollamento. E c'erano tantissimi, cioè la componente musulmana era di detenuti arabi era altissima. Oggi le cose sono un po' cambiate, ma continuano ad essere in tanti, ecco, i detenuti detenuti arabi reclusi nel carcere bolognese. E con loro ci sono tantissimi. La Tozza forse è uno dei pochi casi in Italia dove ci sono tantissimi volontari che lavorano, propongono progetti educativi, si confrontano con i ragazzi, supportati anche dagli insegnanti dell'area pedagogica del carcere, ecco, quindi è stato sicuramente un lavoro importante e stimolante, perché è una realtà forte, ecco, interessante, che mi ha dato sicuramente tanto. Marco, molte delle persone che ho seguito nel corso e che hanno animato le discussioni nella biblioteca del carcere l'hanno già conosciute nel mio precedente lavoro, Mille e una notte. Sì, quindi, sì, sì. Marco, ci dicevi che un elemento centrale in queste discussioni sulle costituzioni è uno dei punti focali, un punto saliente, è quello dell'istruzione come primo elemento fondante di consapevolezza e conoscenza per superare poi i problemi che portano spesso a compromettere la propria vita. Sì, questo diciamo è in realtà questo argomento è stato uno dei punti chiave degli ultimi incontri del corso che ho filmato, perché il corso, diciamo, questi 24 incontri avevano come obiettivo quello alla fine di far scrivere una piccola costruzione, una piccola carta dei diritti e doveri ai ragazzi che avevano seguito il corso, e a portare questo tema è stato un ex detenuto che marocchino che io avevo conosciuto alcuni anni prima e che adesso è fuori, e l'ho fatto rientrare per partecipare con i ragazzi alla scrittura della Costituzione. Il detenuto in questione si chiama Samad ed era recluso nel carcere dove ho filmato gli incontri. Per questa ragione l'ho fatto rientrare, anche perché non mi interessava fare un lavoro, non un altro documentario sul carcere, ma confrontare anche con le problematiche, le difficoltà di ex detenuti arabi. E Samad da questo punto di vista è un esempio positivo, perché lui, dopo aver scontato una pena di 5 anni per traffico internazionale di stupefacenti, sta cercando di cambiare vita, si è iscritto all'università, alla facoltà di giurisprudenza, sogna di diventare avvocato, quindi è sicuramente un caso particolare, ecco. E nel documentario di Sturn io non seguo soltanto gli incontri all'interno del carcere, ma anche la vita di questo ragazzo, e due storie che corrono in parallelo fino alla fine del documentario, quando poi si incontreranno con il rientro in carcere di Samad, l'ex detenuto, che ritrova molti ex compagni, e con loro prova a buttare giù una piccola costituzione, un piccolo tusturro, ecco. Mm-hmm. Una carta dei sogni. Mm-hmm. No, è bello questa carta dei diritti e doveri che nasce dall'interno di un carcere, dove poi spesso, soprattutto pensiamo a una società come la nostra, finiscono gli ultimi. Sì, poi tieni conto che poi io sono anche, diciamo, che sono due le location forti del documentario, che una è sicuramente quella della biblioteca del carcere, che è un luogo simbolico, un luogo, insomma, biblioteca, libri e costituzione vanno a braccetto, ma il discorso è anche un altro, perché io ho girato anche nel cimitero di Casaglia a Marzabotto, uno dei luoghi insomma chiave della resistenza, e dove è nata la nostra Costituzione, no? E sì, uno dei luoghi dove è nata la Costituzione è nata dalla resistenza, dalla sofferenza di tante persone, e questi per me sono due luoghi che nel documentario si incontrano alla fine, perché dopo tanto parlare di Costituzione e mondo arabo, per me è stato importante poi tornare uno dei luoghi più fondamentali della nostra storia, anche perché l'ideatore del corso sulla Costituzione è un volontario religioso che ha scritto, che ha avuto lui l'idea di portare in carcere la Costituzione, un religioso, un monaco con una storia molto particolare, e perché conosce da anni che lavora con detenuti musulmani, ha studiato e ha vissuto in Siria, in Egitto, ha fatto una tesi di dottorato in diritto islamico, quindi conosce molto bene il mondo arabo, ed è un monaco che vive in un monastero a pochi metri dal cimitero di Casaglia a Marzapporto, dove viene il 44 assaggio, quindi, ed è un monaco della piccola comunità dell'Annunziata, che è una comunità fondata da Tossetti, che è anche uno dei, oltre ad essere stato un uomo della resistenza, uno dei padri della nostra Costituzione, quindi insomma ci sono nel documentario tanti livelli, tanti piani, tante storie e tanta storia soprattutto, e spero che insomma venga incastrato tutto nel migliore dei modi. Senti Marco, da domani all'Apollo 11 qui a Roma, per saperne di più in rete dove si può cercare per Dustur? Guarda, su Dustur c'è tutti gli appuntamenti di marzo e aprile e maggio, si trovano nella pagina Facebook di Dustur Film, e prossimi appuntamenti dopo Roma, dopo l'Apollo 11, c'è il Festival del Cinema Durel a Parigi, perché Dustur è stato selezionato, è l'unico film italiano selezionato nel concorso internazionale, e poi andremo a Milano al Festival del Cinema Africano, poi faremo vari giorni allo Spazio Oberdan di Milano, poi ci sposteremo a Pisa, a Genova, a Torino. Bene. Insomma, comunque tutto si trova sulla pagina sul film. Un abbraccio, alla prossima Marco. Grazie a voi. Ciao. Marco Santarelli, regista del documentario Dustur, Costituzione, all'Apollo 11 da qui a Roma da domani venerdì 18 marzo. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Eccoci con Paola San Giovanni, regista del documentario La Linea Sottile, in uscita in sala da domani, venerdì 18 marzo. Paola, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, diciamo l'argomento del tuo lavoro per chi ci ascolta. Sì, l'argomento, dunque, prima di tutto io non sono l'unica regista, perché appunto ho diretto il film insieme a Nina Minza, e sono due storie che si intrecciano, due narrazioni che riguardano due guerre dei primi anni 90 da due diversi punti di vista. C'è la storia di una donna bosniaca che è sopravvissuta alle violenze dei paramilitari serbi nella guerra della ex Jugoslavia, Bakira, e la storia di Michele, che è un ex soldato italiano di una missione internazionale di pace in Somalia, e che appunto, diciamo, racconta, lui apparteneva ad un contingente che si è reso responsabile anche di violenze indiscriminate contro i civili. Quindi diciamo che è come dire, un film sulla guerra, sulla genesi del male, ecco, e la consapevolezza appunto del male e della capacità tutta umana di generarlo. Senti, come nasce questo film? E questo film, in realtà, diciamo, l'idea originaria è stata di Augusta Emendi, che è la coproduttrice del film e che insieme a me e a Nina è anche la coautrice del soggetto, e lei ci ha proposto di riflettere, di costruire una storia, una ricerca su originariamente sul tema della guerra, in modo particolare della violenza contro le donne in contesti di guerra. Sì. Poi naturalmente il film si è evoluto, si è arricchito, abbiamo trovato appunto questa formula di due storie, anche di due punti di vista molto diversi, perché naturalmente l'aver scelto anche un uomo come coprotagonista del film, un ex soldato che appunto si è reso responsabile anche di violenze in realtà nei confronti di una popolazione che avrebbero soltanto dovuto proteggere, ci ha dato la possibilità anche di vedere questo argomento come dire, seguendo l'iter di una genesi proprio della violenza, ecco, a partire proprio

e sarà presente anche il presidente di Amnesty International, che ha dato il patrocinio al film. E proseguiamo poi la prossima settimana, il 24, all'Apollo 11 alle 21, e lì iniziamo anche una piccola serie di brevissime letture che precedono il film, a cui abbiamo dato nome Parole di guerra, e sarà a cura di Sonia Bergamasco. In questo caso sarà una breve lettura da Paolo Rumiz. E poi al film seguirà una mia conversazione con Daniele Vicari. Okay. Quindi diciamo che questi incontri anche dei film sono particolarmente ricchi, ecco. Sì. Poi, comunque... anche perché, ecco. No, per saperne di più, comunque ho visto che c'è anche una pagina Facebook della Linea Sottile. Sì, c'è una pagina Facebook e c'è anche appunto il sito della Berta Film, la distribuzione del film, che attualmente è, diciamo, ancora un work in progress. Il 17 aprile saremo a Trieste e ci sarà anche Nina Minix, che in questo periodo invece non può essere qui per motivi familiari, lei abita a Spalato. Il 18 sarà all'Apollo a Milano e nel frattempo sono previste delle altre proiezioni sia a Firenze, all'Alfieri, che a Bologna, Perugia e a Torino. Bene. Paola, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e grazie. A risentirci presto. Ciao Paola. Paola Sangiovanni, co-regista del documentario La Linea Sottile, in uscita in sala domani, venerdì 18 marzo. Eccoci con Pietro Murchio, presidente del Cinecircolo Romano, per parlare del premio Cinema Giovane, che in pieno svolgimento è cominciato il 14, andrà avanti fino a domani 17 marzo. Pietro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per avermi chiamato. Allora, due ultimi giorni che però sono piuttosto densi rispetto agli inizi, quindi insomma lo abbiamo colto nel suo pieno questa rassegna. Esatto, sì. I primi tre giorni sono stati dedicati alle proiezioni dei film in concorso. Sì. Quindi lunedì, martedì e mercoledì ci sono state tre proiezioni per ognuno dei film in concorso. E oggi invece c'è una specie di maratona, perché oggi saranno proiettate altre quattro opere prime con relative interviste in pubblico. Domani ci saranno altri tre film più due premiazioni, quella della mostra d'arte figurativa che accompagna da sempre la settimana culturale e la premiazione del premio Cinema Giovane, che sarà domani sera alle 21 all'auditorio di via Bolzano 38. Senti Pietro, i titoli che avete scelto per questa rassegna? Allora, i titoli di film in concorso, quelli che ti ho detto sono già stati proiettati, sono Se Dio Vuole di Edoardo Falcone, Vergine Giurata di Laura Bispuri e Loro Chi di Fabio Bonifaci e Francesco Micichè, che sono stati molto apprezzati, hanno avuto 2000 schede di voti, quindi che stiamo esaminando per proclamare il vincitore domani sera. E invece oggi abbiamo questa specie di maratona che comincia con un esordio di Eleonora Danco, N Capace, che sarebbe Incapace, sì. Poi Banana di Andrea Lublin, La Terra dei Santi di Fernando Muraca. Non ci sarà Fernando Muraca, ma ci sarà l'autore della colonna sonora, e L'amore non perdona di Stefano Consiglio, che verrà per il finale della giornata. Bene. E domani, venerdì, cominciamo con Basta Poco di Andrea Muzzi e Riccardo Paoletti, Mirafiore Luna Park, e poi la premiazione della mostra d'arte, alle 21 la premiazione del premio Cinema Giovane, che proverà il miglior autore, la migliore attrice giovanissima, e poi verrà seguito dalla proiezione del film Per Amor Vostro di Gaudino, che sarà presente con la sceneggiatrice, che è un doveroso omaggio a Valerio Golino, che quest'anno ha conquistato per l'Italia la Coppa Volpi. Senti Pietro, brevemente possiamo anche, ci parli anche dell'attività del Cinecircolo Romano? Sì, beh, il Cinecircolo Romano quest'anno celebra il 51esimo anno di attività ininterrotta, quindi siamo molto resistenti nonostante le difficoltà di tutte le associazioni culturali no profit, e continuiamo a fare queste manifestazioni che abbiamo iniziato a programmare nel 2004, siamo arrivati alla 12ª edizione del Premio Cinema Giovane, mentre ogni anno nella quella regular season facciamo vedere una quarantina di film selezionati, con prologhi di orientamento alla lettura, dibattiti, eccetera eccetera, più altre manifestazioni collaterali, e poi c'è un'attività editoriale. Noi pubblichiamo una rivista che è molto apprezzata, è la rivista Qui Cinema, che descrive nei dettagli il programma e i principali festival italiani, e poi nell'occasione del Premio Cinema Giovane una rivista catalogo con tutti i film della rassegna. Senti, se non sbaglio c'è anche una pagina Facebook per seguire le vostre attività. Esatto, c'è anche una pagina Facebook sulla quale da poco abbiamo inaugurato il prolungamento del dibattito, nel senso su iniziativa di un socio, abbiamo cominciato a, visto che ai dibattiti veri e propri viene poca gente, come non è che facciamo eccezione, però la gente magari che scappa eccetera, poi quelli che sono appassionati anche di uso di internet, mettono il loro commento sul film appena visto, se lo scambiano con gli altri soci, si fa una specie di gruppo di commenti su questo, quindi c'è questo aspetto abbastanza nuovo, se vogliamo. Bene. Perché insomma adesso di tutte siamo un paio di migliaia di soci e la metà di questi sono dotati di posta elettronica, quindi insomma le comunicazioni viaggiano. Certo. E chi ha la posta elettronica prima o poi su Facebook ci va, e prima o poi la voglia di fare un commento sul film che ha visto gli viene. Insomma. Bene. Allora ricordiamo le giornate di oggi e domani ancora per Premio Cinema Giovane al Cinecircolo Romano. Pietro, io ti ringrazio, speriamo di risentirci presto. A presto, buon lavoro. Ricordatevi che all'auditorio detto del San Leone Magno, che c'è nell'area di Piazza Costanza. Benissimo. E il pubblico entra gratuitamente. Non è che siamo matti, ma lo facciamo per promozione. Benissimo, un abbraccio Pietro, a presto. A presto, ciao. Pietro Murchio, presidente del Cinecircolo Romano. Eccoci con Cristina del Cine Club de Tour per parlare del Festival Cinema Arabo e Palestinese Al-Ard da domani fino al 20 marzo, quindi 18, 19 e 20. Cristina, ben ritrovata. Ciao a tutti, grazie Federico. Allora, grazie mille. Raccontaci brevemente di questo festival. Allora, guarda, brevemente posso dirti che è una nuova creatura del Detour in collaborazione con Al-Ard, che probabilmente tutti già conoscete, l'Al-Ard Film Festival di Cagliari, e quindi abbiamo con Ulalia anche, insomma abbiamo creato con Simonetta Lambertini, abbiamo creato questo nuovo organismo che crescerà sicuramente sul cinema arabo e palestinese, e ovviamente il focus è sulla Palestina, perché è è uno dei temi che noi trattiamo ormai da tempo, il Detour, però anche abbiamo aperto anche al cinema arabo, anche perché anche Al-Ard si occupa sia di Palestina che di cinema arabo, proprio perché i palestinesi hanno molto rispetto degli altri popoli assoggettati e che hanno bisogno ovviamente di sostegno. E Ulalia una parte del ricavato andrà ad Ulalia, perché abbiamo molta stima del loro lavoro e loro hanno progetti nei campi profughi in Libano, e quindi ecco, vi chiediamo veramente di venire e di sostenere con noi Ulalia, perché è un grande lavoro quello che fanno. Senti, volevo sapere da te quante sono le opere che presenterete in questi 3 giorni. Allora guarda, sono 2 film venerdì, 2 film sabato. Poi invece domenica è una serata dedicata a un pomeriggio, con 2 iniziative dedicate alla letteratura palestinese. Sì. Una per bambini sulla piccola lanterna di Canafani, dedicato a un libro gioco che andiamo a presentare, con cui i bambini potranno giocare e imparare una piccola storia palestinese, e che Carafani scrisse per sua nipote. E poi la sera, verso le 7, ci sarà invece una lettura, si chiama Fonocromie, una lettura di poesie palestinesi, e questo in collaborazione con Edizioni Q, che è parte integrante della, anche questa, del festival, e musicate, e saranno sia in arabo che in italiano, però diciamo è una commissione, un'unione di tutto questo, non è l'italiano la traduzione dell'arabo, okay, e la musica come accompagnamento, è un organismo anche questo che speriamo, siamo sicuri che sarà bellissimo. Senti, le tre giornate da che ora cominciano? Allora, guarda, il tardo pomeriggio, okay, la prima serata apriamo alle 7, e il primo film è alle 7:30, e idem il sabato sabato inizia un po' più tardi, comunque vi consiglio su www.cinedetour.it di controllare se ho studiato. Sì. E quindi sì, poi andiamo avanti con i due film. Apriamo con Infiltrator, un film sull'esperienza quotidiana dei palestinesi, molti palestinesi che per attraversare il muro che divide i territori da Israele rischiano tanto, però è molto bello, è molto emozionante, stai lì che lo guardi, sembra veramente un film d'azione, veramente incredibile, invece è vita reale. E poi proseguiamo invece sempre venerdì con un film di un regista egiziano, El Minou, con cui poi avremo un incontro Skype dopo il film, che è sul discorso del potere, un'analisi cinematografica del linguaggio del potere, sia nel discorso politico che nel discorso religioso per assoggettare i popoli. È molto molto interessante, sicuramente non un film facilissimo per tutti, però ci accompagna verso nuove domande, ecco, non dà risposte sicuramente, però ci apre molte domande e sarà bello parlarne insieme. Okay. E poi invece sabato abbiamo il film Kingdom of Women di una regista palestinese che ha raccontato nel suo film la storia delle donne di un campo profughi sempre in Libano, e infatti di questo film prendendo la scusa di questo film parleremo della realtà che affronta Ulaia nei campi profughi dove operano, e quindi sarà delegazione di Ulaia, che è una grande associazione di donne, soprattutto donne fantastiche. E poi World Not Ours subito dopo, è un bellissimo film anche cinematograficamente splendido, che parla sempre di un altro campo profughi dove il regista ha vissuto con la sua famiglia, ma è trattato in un modo molto molto interessante, ma anche materiali d'archivio che il padre filmava, e quindi sono queste super 8 caldissime di immagini che non è facile vedere, e lui accompagna le immagini con una musica totalmente straniante che è death, veramente non si usa la parola geniale, però io credo in questo caso potremmo utilizzarla. Invece okay, domenica, come vi dicevo, sulla letteratura, sia per bambini alle 7:30, alle 5:30, e poi a seguire alle 19 Fonocromie, e concludiamo con Nemico dell'Islam, un incontro con Nuri Buzid, che è un film di Stefano Grossi che ha vinto il The Tour on the Road 2015, ma che è stato menzionato, ha vinto una menzione speciale ad Alard quest'anno, quindi Alard e The Tour e le Durand Rond che si uniscono senza neanche saperlo. ed è bellissimo anche perché questa cosa mi è piaciuta molto, e l'ho voluta io con Simonetta, soprattutto io per imparare, perché veramente ho bisogno di capire, ed è un bel modo questo per stare insieme e capire anche per chi è lì, che sa quello che fa e dove lo fa, per farci insegnare. E non è sicuramente dall'alto che portiamo questa cosa, è proprio per mettere insieme le forze e fare rete. Bene. Come ci piace fare. Sì, io vi invito a venire anche perché ci sarà veramente bella gente. Cristina, belle cose da vedere. Io ti ringrazio, ricordiamolo allora, Festival Cinema Arabo e Palestinese Alard al Cineclub de Tour. Dal 18 al 20 marzo, tutti i riferimenti internet ce li hai dati, un abbraccio e a presto. Grazie Federico, ti aspettiamo. Va bene, ok. Ciao a tutti, ci grazie, vediamo a lì. Presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille, ciao, ciao, ciao. Questo per quanto riguarda il Cine Club de Tour, la rassegna di cinema arabo e palestinese. È tutto per Visionari di questa settimana. Torniamo giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Trovate tutto sulla pagina di Visionari sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, la colonna centrale, quella delle trasmissioni, alla voce Visionari, idem per la pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e in streaming dal sito della radio, sull'home page c'è ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento, tra qualche istante Tracce di Cinema.